Europa 24. Buon pomeriggio da Gigi Donelli. Dunque, Martin Schulz sarà il candidato del Partito Socialista Europeo alla presidenza della prossima Commissione Europea. A dirlo Guglielmo Epifani, dunque la segreteria del PD, che di fatto sottoscrive quello che sembra essere ormai da qualche settimana il candidato appunto della sinistra europea alla presidenza della Commissione. Lo ricordiamo. Dopo le elezioni europee di maggio è previsto dunque il cambio nel corso dell'anno alla presidenza, quindi il sostituto al Barroso, e per la prima volta si chiede a gran voce un'indicazione da parte dei partiti che sia legata a quello che poi sarà il voto di maggio, quindi un legame tra partito di maggioranza e indicazione appunto del presidente della commissione. Questo per quanto riguarda la presidenza. Intanto ieri sono ripresi ufficialmente i negoziati per l'adesione della Turchia. Siamo pronti non solo a fidanzarci ma a sposarci con l'Europa, così ha scherzato il ministro turco per gli affari europei Egemen Bagis. 40 mesi dopo, Unione Europea e Turchia riprendono a frequentarsi. Tanto è durato il lungo stallo tra i due blocchi nei difficilissimi negoziati di adesione di Ankara. Ottimista il ministro degli affari europei Bagis, che ha definito la ripresa solo un inizio. Siamo vicini alla firma dell'accordo di riammissione e al lancio del dialogo sui visti per l'area Schengen, ha aggiunto Bagis. Per il primo punto si prevede che sia gli immigrati clandestini turchi, sia quelli provenienti da paesi terzi che approdano nell'Unione passando per la frontiera turca, vengano riaccettati da Ankara in caso di espulsione da uno dei 28 paesi comunitari. A questo è strettamente legato il secondo punto, vale a dire la sempre più concreta possibilità per i cittadini turchi di accedere all'area Schengen per periodi limitati. La riunione ha visto su un fronte più tecnico l'apertura del capitolo negoziale numero 22 relativo allo sviluppo regionale. La Commissione europea ha chiesto di aprire rapidamente anche i capitoli 23 e 24 che riguardano i diritti, le libertà, la giustizia e la sicurezza. Al di là delle buone intenzioni che hanno segnato questa ripartenza nei colloqui, i risultati continuano a latitare. In 8 anni un solo capitolo negoziale su 35 è stato aperto e completato tra Bruxelles ed Ankara. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo di salute. Il 25 ottobre scorso è entrata in vigore la direttiva comunitaria che prevede per tutti i cittadini europei il diritto a curarsi in ogni stato dell'Unione. Molti paesi però sono in ritardo con le norme di recepimento necessarie per rendere operativa la direttiva. Ci sono insomma molti nodi da sciogliere, come dice Mariano Votta, responsabile per l'Italia di Active Citizenship, che ha realizzato un dossier su questo tema, intervistato da Maria Luisa Pezzali. Il recepimento della direttiva necessita di un adeguamento consistente in molti paesi della normativa esistente. In paesi come Estonia, Lettonia, anche Austria, il lavoro a livello legislativo è stato molto corposo. In altri invece, come la Germania, i contenuti e i principi esplicitati nella direttiva erano già all'interno della normativa nazionale e quindi non hanno dovuto fare un grande lavoro. Che cosa cambierà una volta recepita in tutta Europa questa direttiva? La direttiva presenta un principio molto importante per tutti noi e per i pazienti in particolare, cioè il diritto ad ottenere cure anche al di fuori del proprio paese, fatto salvo esigenze di trapianti, di vaccinazioni e per le degenze di lunga durata. Questa opportunità è però subordinata ad una serie di fattori, innanzitutto ad una preventiva autorizzazione che il proprio paese di provenienza deve dare. Un altro aspetto che può essere limitante è il fatto che il cittadino deve anticipare dei costi per poi ottenere il rimborso dallo Stato. Quindi c'è un rischio che le opportunità che la direttiva offre possono andare a beneficio di chi, tra virgolette, se lo può permettere. Grazie a tutti. Europa 24 torna domani, naturalmente, alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.